24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Ho visto un re. Se la riscuse? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sulla sella. Piangeva tante lacrime. Ma tante che? Bagnava anche il cavallo. Se c'è da dirsi qualcosa tra partiti, ce le diciamo. Se c'è da dirsi qualcosa, da chiarirsi, uno si chiude in una stanza e parla. Poi però quando c'è da parlare agli italiani, parla delle cose concrete, non della corrente interna al PD, a NCD, no, a Scelta Civica, se esiste ancora Scelta Civica, e agli altri partiti. Povero anche il cavallo. Sì, beh. Ho visto un be. Se la discuse? Ho visto un be. Voglio dire con forza che è finito il tempo del potere di veto, in cui un singolo piccolo partito poteva dire o si fa così oppure ci mettiamo di traverso. La mano di chi? La mano del sacrestano. Povero vescovo. E povero anche il sacristano. Ma se uno immagina di avere un potere di veto in Italia, è bene che si sappia che quella stagione è finita per tutti. Partitini, partitoni, partitucci. Una pazzia. Oh, per Cristo. 32 che lui c'è. Povero vescovo. Il linguaggio corrente si è soliti tradurre il compito del capo dello Stato nel ruolo di un arbitro, di garante della Costituzione. È un'immagine efficace. All'arbitro compete la puntuale applicazione delle regole. L'arbitro deve essere e sarà imparziale. Povero anche il PIN. Insomma, abbiamo capito. C'è un re. L'ha mezzo rovinato. E un arbitro. Ha portato via tre case, un caseggiato di 32. Indovinate un po' chi è il re e chi è l'arbitro. E povero anche il PIN. Ormai Renzi, lo diciamo da tempo, può fare il bello e il cattivo tempo, Basta partitini, partitucci, Scelta Civica esiste ancora. NCD, L'Italicum adesso non accetto veti, avanti. La Severino non si cambia, non si tocca, avanti. E questo qua. E poi c'è l'arbitro. L'arbitro, no, invece Sergio Mattarella, l'avete sentito. Più timido che freddo, mi sembrava, no? Con la perdita dei fogli. Ho perso dei fogli, ma no, salterei delle parti importanti. No? E invece c'è il re, e il re è Renzi che può fare quello che vuole, pone veti. Ieri qualcuno l'ha visto in veste Zelig, prima lì a fare il battimani al capo dello Stato, bravo la clac, poi dopo da Tsipras, ecco il debito greco, faremo così il debito. Ragazzi, 8 vite, 10 facce, una giornata di 28 ore fa e ottiene tutto quello che vuole. Poi vabbè, c'è anche Berlusconi è tornato. Ma è chiaro, ma è tutto ovvio, Berlusconi che va dalla Bindi e gli dice: ah, complimenti, non pensavo che un uomo e una donna si commuovesse così. E la Bindi che gli gira le spalle dicendo: pensavo che fosse diventato un po' più galante lei. Ma io sono galante, signora. È Berlusconi che racconta le barzellette sulla mafia a 3 metri da Mattarella, che ha avuto un fratello ucciso dalla mafia. È Berlusconi che vuol dire questo: mi avete rivoluto al consesso qui a tavola con voi? Sappiate che io sono così, vi piaccia o no. Era chiaro, come raccontano i giornali, che Berlusconi è appena entrato. Sono in sesta fila? Ma avete messo in sesta fila? Al giuramento al Quirinale. Si è capito subito che dove voleva andare a parare? Voleva fare il guastatore con le barzellette sulla mafia. Vabbè, sono le 6:34 minuti, questa è 24 mattino. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione e Carmelo Lauricella in regia. Forza, il Parlamento. apra. Adesso vado a prendere un caffè, quindi se mai ci vediamo più tardi, grazie. C'era anche Briciola al giuramento, c'era anche cara Paola Saluzzi, c'era anche Briciola. 2015, evviva le rosse, torna, ma diventa evviva la Paola. Sì, l'abbiamo capito. Con Paola Saluzzi. Adoro. Paola Saluzzi, special guest. Paola Saluzzi e altri quittizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Allora, tra l'altro, Paola Saluzzi. Meravigliosi ragazzi del mercoledì, buongiorno. Paola Saluzzi ha fatto un appello pubblico la scorsa settimana, non sappiamo come aiutarla, ma caro ascoltatore che ci ha mandato questa e altre straordinaria sigla, come possiamo fare, Paola? Caro ascoltatore, scrivici una mail 24 sì, mattino. Un tweet, qualcosa per ringraziarla. Manifestati, insomma, sono 24 sono mattino. Fanno bene alla salute. Esatto. 24 mattino salute. @radio24.it fa bene alla salute e alla Saluzzi. Scrivici perché dobbiamo farti, come dire, dare un abbraccio virtuale dalla nostra Paoletta. Così come saluto Luca Dini, direttore di Vanity Fair. Eccoci qua, Luca. Buongiorno. Super dir. Super dir. Allora, vi voglio subito far divertire perché molto. Super. Siamo meno di briciola noi. Super dir. Briciola. C'è la foto sul che Corriere. Che meraviglia, però. Che meraviglia. Dai, anche tu la retorica di briciola, sì. No, no, ti prego. No, ragazzi, briciola è l'erede di una di dinastia sacrosanta. No. Sono i bastardini, sì. Che fanno da mascotte. Io ricordo Semicroma. Sì. E ricordo cagnolini tutti vestiti con la divisa rigorosamente della fanfara dei carabinieri a cavallo, certo. Che hanno prima di tutto da un punto di vista di, come dire, tranquillità equina il loro perché, sì, perché questo cosetto sì. Che passa in mezzo alle zampe dei cavalli, certo. tranquillizza. E poi è una meraviglia e poi voglio dire, viva i bastardini d'Italia e viva i bastardini d'Italia e viva i bastardini d'Italia, questa non è male, potremmo tenerla come slogan. Comunque briciola sì, c'è chi a Dudu e chi a briciola. Vi voglio subito, ecco, far parlare di Berlusconi, così caro Lucadini ti metto, lo so, ti rallegro la giornata. Il signor Silvio Berlusconi a due passi dal signor Presidente della Repubblica Mattarella, il cui fratello Pier Santi è stato ucciso dalla mafia, ieri racconta la seguente barzelletta. Un siciliano viene fermato per dei controlli. Cos'hai nella borsa? Una calcolatrice. Ma aprono la borsa e dentro c'è una lupara. Ebbene, noi i conti li facciamo così. Luca, non ridi? Paola, non fa ridere. No, non fa ridere. Che devo dire? Secondo me così si comporta uno che ha capito di essere politicamente morto. Era in sesta fila ed è giusto che ci sia. Forse deve stare anche più indietro. Però la questione, secondo me, la lettura in realtà è proprio questa. Cioè, Berlusconi dice: mi avete appunto reimmesso in maniera. Non che sia. Cioè, in realtà politicamente non conta più come prima, però ha un partito. Mi avete reimmesso nel consesso e io, sappiate, sono questo. Per cui vado dalla Bindi e le dico che è un uomo, faccio le barzellette. Diciamo che l'ha sempre fatto. L'ha sempre fatto. Certo, questo non giustifica, però insomma l'ha sempre fatto. Questo è stato un atteggiamento tenuto con coerenza, posso dire? Sempre sì. È stato così. La sostanza è quello che è successo ieri. Ieri noi abbiamo salutato l'ingresso al Quirinale dopo un novennato profondamente sofferto da un eccellente presidente come Giorgio Napolitano. Abbiamo salutato un eccellente presidente, tu dici di già, non ha neanche fatto un giorno in più al Quirinale. Beh, la persona si è presentata nel migliore dei modi, in modo concreto, privo di retorica, privo di fronzoli, privo di tutto quel di più. Via le briciole, per giocare sulle parole, c'era tanta sostanza. E poi c'era Berlusconi. E vabbè, comunque è così. Vabbè, che dobbiamo fare? Questo è. C'è un paese che deve fare in fretta, soprattutto. Non lo vuoi dire il. Fate presto! Come il titolo! Come il titolo sono 24 ore. Fate presto! che dobbiamo dire? Vabbè, ma Luca, invece, per il resto, il discorso ti io devo dire, non è che li ascolto, li seguo, non è che mi appassionino queste cose, contare i 42 applausi, i 37 applausi. Sono dei discorsi in cui è chiaro, si parla agli italiani, e quindi ci mancherebbe che uno, come dire, non include qualcosa, non include qualcuno. Però ti è apparso come inizio, Luca? No, se il buongiorno si vede del mattino, il mattino mi è piaciuto. Mi sono piaciute alcune cose, voglio dire, per carità, cioè, uno può dire che c'è retorica, però per esempio la scelta di ricordare il bambino della sinagoga, cioè voglio dire, non ci pensa mai nessuno. Sì. Il fatto che uno ci pensi è bello, secondo me, è molto. Molto importante. Sì, il bambino ucciso nella sinagoga a Roma. E tra l'altro il fratello dice: voglio conoscerlo, visto che insomma sono accomunati in questo senso, no? Anche il presidente ha avuto un fratello ucciso, come dire, in circostanze diverse, ma in maniera molto violenta e brutale, e così ha fatto questo omaggio. Un presidente che parla di un bambino già è raro. E quella storia lì, soprattutto, di cui non parla mai nessuno. Insomma, a volte anche i simboli che si scelgono sono, vogliono dire qualcosa, c'è sostanza dietro, secondo me. C'è sostanza. Sentite un po' qua Maria Elena Boschi, sapete che insomma Maria Elena Boschi. No, vabbè, però in questo caso al di là della voce, perché c'è anche una cosa. Come? Le C cantano, le no, S suonano, detto? E le S suonano. Però sentite cosa dice di Mattarella. Ecco, tutto penserebbe uno di Mattarella, tranne quello che dice Maria Elena Boschi. È pure interessante. Perché è un rottamatore, perché uno che ha rinunciato alla poltrona per una legge del suo governo che non condivideva. E io credo che questo sia perfettamente in linea con la politica che portiamo avanti. Un rottamatore. Noi non abbiamo mai fatto della nostra richiesta di rinnovamento. Perché è un rottamatore? Vabbè, poi le C che suonano. Un elemento d'età generazionale. Vabbè, è un rottamatore. Ecco, io guardandolo così, il physique du rôle, proprio non penserei questo. Eppure Paola Saluzzi, per Maria Elena Boschi, e sai che io non la contraddico. Capace, assolutamente, ma è stato uno capace di fare la curva a gomito, insomma, no? Di svoltare, di andare via, anche di chiudere la porta senza sbattere troppo forte. Sì. Se rottamare vuol dire questo, è chiaro che adesso, come dire, è importante che faccia parte della squadra e del team, sì, si dice rottamatore. Sicuramente è stata una persona che ha sempre assunto con i propri comportamenti esattamente la linea che voleva assumere, insomma, non facendo una cosa per arrivare ad un'altra, facendo punto. Ma sì, però la santificazione non c'è. Ecco, appunto, cioè io eviterei questo rischio che ho visto sui giornali tantissimo di santificazione. Oggi c'è un Filippo Ceccarelli, per esempio, straordinario su Repubblica, che parla per righe e righe sui capelli bianchi di Mattarella. Perché voglio dire, per esempio, un impegno che poteva prendere. Ed è un tema che poi, al di là della retorica, tra tre mesi spunta sui giornali per le inchieste che ci sono. I costi del Quirinale, che sono quattro volte Buckingham Palace, avrebbe potuto Luca Dini dire qualcosa, fare un impegno, dire contro l'antipolitica. Ecco, appunto, molto spesso l'antipolitica è generata dal fatto che gli italiani leggono alcune cose che non stanno né in cielo né in terra. Luca poteva magari impegnarsi, fare una parola, dire una parola su questo. No, secondo me casomai deve fare qualcosa, ma non vedo perché dovesse fare proclami. E comunque sulla beatificazione di Mattarella, secondo me bisogna ricordare una cosa, la stanno facendo gli altri, cioè ascoltiamo lui e vediamo quello che fa. Sì, è vero. E è non vero. Concentriamoci su tutta la retorica che c'è intorno, che la stiamo facendo noi. In questo io dico sempre da giornalista, insomma, dovremmo fare anche una riflessione, noi come categoria, cioè si leggono alcune cose che sinceramente... E gli arancini, e cosa mangia sì, a colazione, sembra, a pranzo, a cena. Però non lo voglia far scrivere lui, cioè quello che voglio dire... La santificazione deve essere controllata nelle persone che fanno la descrizione, andando a guardare la sostanza, cioè l'uomo, uno che il primo istante se ne va alle fosse ardeatine, monumento alla mostruosità del... Sì. No, ma senza dubbio il comportamento ieri, suo, noi diciamo... E non... che ha 24 ore di vita come presidente, mo se in 24 ore fosse stato necessario dire... via i costi, via quello sarebbe ancora lì a parlare. No, ma questo certamente, cioè, anche perché, voglio dire, è un presidente che come prima dichiarazione ha fatto una dichiarazione di 16 secondi, quando è stato, no, ecco. Questo per dire, questo è certamente non è lui che incita, invita i giornali a scrivere le boiate anche che sono state scritte. Abbiamo Papa Francesco, abbiamo un presidente che sembra... Sì. Aver preso già di suo la piega giusta non è poco e soprattutto fate presto e soprattutto ovviamente Crozza cosa ha fatto subito? Mi è partito a imitare il Presidente della Repubblica. Sentite qua Crozza freschissimo ieri a Di Martedì. Non mi si nota mai. Pensate che quando ero piccolo a scuola ero così poco notato e i miei compagni mi appendevano i cappotti addosso. All'appello ero segnato la voce altri. Io, questo dei cappotti è incredibile, non l'avevo ben colta, non mi si notava, mi appendevano i cappotti addosso. Non è male questa di Crozza, vabbè. Che dobbiamo fare? Anche la zeppa, anche la F, così. Erano deliziose le due donne corazziere accanto a lui, la Fedeli e la Boldrini. Proprio quando ha perso la pagina, no? Mamma la cura di che meraviglia, che il Presidente della Repubblica perde le pagine, mi sento meno sola. Oh, come dire, finalmente, quante volte la Saluzzi in TV perde le pagine? Ma forse solo in TV, ma vabbè. Capita e succede. Andiamo a sentire il traffico. 24 mattino. Milan, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Se non avessi detto, se non avessi dichiarato sempre ogni volta di essere originario di Sesto San Giovanni, la tua perfetta conoscenza del russo lo avrebbe finalmente rivelato. Oh, a noi ci tocca lavorare. 1100 euro al mese, un bel panino con la mortadella, però almeno siamo felici. Ciao Milan, sei grande. Ma che arrabbiati, quando si ascolta una trasmissione come quella di oggi alle 6:30, così bella, ma così bella dall'inizio alla fine. Ieri dormivo e l'ho persa, ero tanto triste. Io non capisco tutto questo stupore sul comportamento di Renzi, ma quando si è inchiappettato Letta all'inizio, cos'è che si diceva? Ce lo siamo dimenticati, già la memoria è debole, corta. Il piano dell'ISIS per conquistare Roma, beh, visto quello che è diventata, che ce lo chiedano, che gliela diamo subito. Beh, adesso insomma. È arrivato. Su un piatto d'argento, gliela diamo. A questi che bruciano vivi, le persone. Per carità. C'è da dire che dalla Giordania dicono che è un falso clamoroso questo video. Speriamo. Che però dicono che in realtà questo pilota sia stato già ucciso in un tentativo di blitz americano di liberarlo e che invece abbiano in qualche modo architettato in questo gioco dell'orrore così questo video. Tra l'altro voglio dire, su Vanity Fair, Luca, voi raccontate questo numero, tra le altre cose, la ripresa, possiamo dire, di Kobane, che era caduta in mano all'ISIS, sì. Che è stata ripresa dai curdi. Dalle curde soprattutto, dalle combattenti peshmerga curde. E cosa raccontate in questo servizio da lì? Ma soprattutto questa storia di queste donne, devo dire. Ne avevo già sentito parlare chiaramente, però è una storia impressionante, devo dire, il grido di guerra di queste combattenti, la danza che fanno. E poi come parlano dell'ISIS, ce n'è una che dice: un giorno ne abbiamo preso uno prigioniero, si è svegliato, mi ha chiesto dell'acqua e ho capito che pensava di essere morto e gli ho detto: questo non è il tuo paradiso e io non sono una delle tue vergini. Insomma, sono veramente delle combattenti, insomma, che ha ripreso. No, ma vi segnalo questo articolo di Ima Vitelli che racconta appunto la ripresa di Kobane. La prossima settimana ci sarà un'altra storia, ne parleremo, ma pazzesca, devo dire, sempre da lì. Allora, tra l'altro invece la copertina è, parla di tutt'altro, ma voglio quest'argomento sì, di tutt'altro, di tutt'altre donne si può anche dire. Arriva il film 50 sfumature di grigio. Paola, cosa c'è? Paola, hai fatto come dire? No, e non sono i capelli di Mattarella. E non sono. E non sono. Battuta, no. Questa è la battuta del mese. Del mese. Del giorno. Questa verrà twittata in 3 nanosecondi. Vabbè, finita. Vabbè, ma a parte questo. E quindi ci sono ovviamente in copertina gli attori del film che preannunciato con il più alto numero di scene erotiche. Erotiche, così più o meno l'ho capito, no? Di scene erotiche mai visto. Oddio, insomma. ed anche la regia Carmelo Lauricella subito. Carmelo Lauricella in scia. No, però in realtà volevo fare questo saltino per arrivare a parlare di donne, di un aspetto che mi ha colpito della questione del Vaticano, quello che ha detto il Cardinal Ravasi. Come posso non approfittare della presenza di una bellissima donna, di un direttore che è sempre attento anche a quello che sono queste tematiche, la questione della chirurgia estetica. Allora, Paola Saluzzi, questo burca di carne. Io credo che Cardinal Ravasi abbia fatto benissimo a sollevare la questione, peraltro con, questo ci tengo a dirlo, una donna come Nancy Brilli che è omen omen, è brillante è anche compagna di un chirurgo plastico. Credo che lei tutta la soluzione sia nella parola burka. Sì. Burka è un obbligo, un dannatissimo obbligo, non è una cultura, è un obbligo. Sì. E copre tutto della persona. Quando la chirurgia diventa un obbligo per una donna, nel senso che non può più farne a meno, e quindi una donna ne diventa schiava, ecco che la chirurgia diventa un burka. Ecco, però schiava, cioè perché un burka di carne. Infatti il senso è proprio questo, cioè l'accusare il fatto che alcune donne vogliono in qualche modo seguire delle mode, seguire dei modelli, e per questo si autoimpongono delle scelte di chirurgia estetica. Però è pur sempre una scelta libera, e questo è il tema, no, nel senso che non è che nessuno appunto gli va a imporre come un burka in Afghanistan, no. Fai così. È libera, e lascio subito la parola al direttore, è libera, ma in certi momenti non lo è, non lo diventa più. È libera finché io non sto bene con una parte di me stessa e la voglio cambiare. Quando diventa un appuntamento fisso, stabile, per cui inizio con una cosa, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra, diventa una forma di, come dire, ossessione, se si vuole. Quella diventa la schiavitù. Però il tema è interessante, perché Luca Dini, di certo alla base c'è sempre una scelta di libero arbitrio, però effettivamente si pone una questione, come dire. Devo dire che a volte in TV ne vedo certe che mi fanno impressione, però meglio autoimposta che imposta. Io dico solo questo. Meglio autoimposto che imposto. Certo. Questo certamente. Quindi, insomma, ti rende un po' perplesso l'appello del Cardinal Ravasi, oppure un pochino sì. E vabbè, che dobbiamo fare? Comunque 50 sfumature di grigio. Ci saremo. Non c'entra, saremo con la chirurgia. Sempre, siamo già in edicola. Vabbè. No, questa è la copertina. Ovviamente tu dimmi chi sono gli attori. Ah, Dakota Johnson e Jamie Dornan. Jamie Dornan era famoso? Io non. No. Era un famoso modello. Ah, un famoso modello, capirai. No, ha fatto un po' di cose, diciamo. Ha fatto un po' di cose. Cioè, da modello. Tutti sono diversi. Da modello. Vabbè, ma invece, cara Paola Saluzzi, alle 15 io su voglio Sky. Fare un appello, sì, ne approfitto. Fai l'appello. Risintonizzatevi sul canale 27 del Digitale Terrestre. Giusto, che è partito il canale in chiaro. In chiaro, andate in chiaro e seguiteci anche. Potete seguire anche la Paola, la Rossa. Assolutamente, politica, strapolitica, ma condita di cose molto particolari e anche molto gustose, non aggiungo 50 altro. 50 sfumature di rosso. Infatti, cioè, perché è partita Jetem, non so, le cose speciali, vedremo oggi alle 3. Lo speravo. Dai, io vi devo salutare e ci sentiamo mercoledì prossimo, vi mando un abbraccio.

delle proposte. Quindi erano due piani, diciamo, distinti. Il secondo piano, quello del mio gruppo, il gruppo di lavoro, ha prodotto le slide, le famose slide, che non sono state mai pubblicate ufficialmente, ma sono finite comunque sul web. Dietro a questo non c'era un rapporto, lunghi rapporti, perché questo non era l'obiettivo. C'erano proposte, c'erano calcoli, c'erano tavole, c'erano brevi appunti. Al tempo stesso siamo rimasti in attesa fino a fine febbraio del prodotto dei gruppi di lavoro. A febbraio il governo è caduto, quindi non tutti i 25 gruppi di lavoro hanno dato risultati. Alcuni hanno dato, parecchi hanno dato risultati, però la qualità di questi risultati era diversa a seconda del gruppo di lavoro. Sì. Questi risultati sono pure stati considerati quelli più validi per dare un input alle slide, alle proposte del commissario. Ci sono, credo, 25 gruppi di lavoro non hanno mai completato il loro rapporto, il governo fra l'altro appunto è caduto, altri l'hanno completato soltanto in parte. Ci sono dai 15 ai 20 dossier di diversa qualità che in teoria potrebbero essere pubblicati. Io credo che il governo abbia intenzione di pubblicarle. Ecco, perché ci aiuta a capire. Potrebbe essere una questione di giorni. Addirittura, e questa è una buona notizia, perché sa, addirittura c'è chi li ha chiesti al Ministero dell'Economia e si è sentito dire che lei dipendeva da Palazzo Chigi e quindi bisognava chiedere a Palazzo Chigi. Allora hanno chiesto a Palazzo Chigi, hanno detto che bisognava chiedere. Lei da chi dipendeva? Ci aiuti a capire. Io formalmente dipendevo da Palazzo Chigi. Quindi è Palazzo Chigi che dovrebbe. Ma non lo so, insomma, diventa una questione formale. Questo che credo che si stiano parlando tra Palazzo Chigi. Il Ministero, c'è anche una questione pratica di dossier, ci sono ovviamente, non aspettatevi un granché, questo intendo dire. No, però una quindicina, 20 dossier, magari non tutti di grande qualità, però... Ce ne sono, quelli che hanno dato un maggior risultato sono quelli, diciamo, di alcuni gruppi, soprattutto orizzontali, quello sui beni e servizi, se viene pubblicato si vedrà che è un rapporto molto corto. Però dietro di quello c'è stato poi tutto il lavoro che è confluito nel decreto legge 66, nella riforma dei 35, famosi 35 soggetti aggregatori che dovrebbero sostituire le 34. E questo è interessante questo punto. Però intanto altri lei... sono invece, ci sono pochi suggerimenti. Lei ci dice non aspettatevi granché, però almeno in nome di una trasparenza, lei viene da un modello americano, da una vita in America, crede che sia giusto che venga pubblicato almeno il lavoro che è stato fatto, magari anche per giudicarlo incompleto, per giudicarlo. Beh, sinceramente credo l'unico motivo per cui non è stato forse ancora pubblicato è che c'erano cose più importanti da fare, pubblicare questi dossier. E comunque spero siano pubblicati. E potrebbe succedere, lei dice che al governo... Mi hanno detto che li stanno sistemando, insomma c'è una questione anche ovviamente puramente di editing, come può capire. Sì, di editing. L'idea di pubblicarli, lei dire, perché lei sul suo blog qualcosa scriveva a riguardo? Cioè, sì, però il mio blog ovviamente dipendevo dalla Presidenza del Consiglio e ovviamente anche dal Ministero, perché poi c'è un dialogo continuo, quindi le cose che io metto sul blog, mettevo sul blog, perché adesso non lo gestisco più, ovviamente erano cose comunque che erano in qualche modo state discusse. I rapporti sono stati, i dossier erano stati inviati a me, io lavoravo per il governo, quindi mi sembra giusto che qualcuno li rende pubblici, al governo non posso essere io. Senta, le chiedo questo, Cottarelli, ci vuole dire, perché lei ha sempre smentito rapporti negativi con il Presidente del Consiglio Renzi attuale, perché lei fu chiamato dal precedente, doveva rimanere 3 anni, è rimasto 1 anno, che rapporti ha avuto lei con Renzi? Sempre positivi? Ma i rapporti a livello professionale sono sempre stati di collaborazione, di lavoro, insomma, come dico, io sono tornato anche negli Stati Uniti perché la mia famiglia è rimasta lì, mi sembrava che dopo 1 anno di aver dato un contributo sufficiente. Sì. Sa come, insomma, ci sono anche dei rapporti, come io ho detto, ci sono rapporti di chemistry anche che possono essere... rapporti personali magari meno, professionali... Questione di gusti delle volte. No, dico è con Renzi, professionali buoni, magari personali, non so, meno. L'importante sono i rapporti professionali. professionale. Va bene, mettiamola diplomaticamente così. Senta, lei ha detto appunto che c'è la proposta di portare da 34.000 circa a 35 centri di acquisto. Sarebbe una rivoluzione clamorosa. Quando avverrà? Ma dunque, sono stati approvati un paio di settimane fa, diversi passi che devono essere fatti per l'attuazione. Due passi molto importanti era la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di due decreti del Presidente del Consiglio, cosa che è avvenuta un paio di settimane fa. Il primo è quello che dice come si fa a entrare nell'elenco dei 35 soggetti aggregatori. Sì. Il secondo è quello che dice che cosa devono fare questi 35 soggetti aggregatori, in particolare cosa deve fare il tavolo tecnico, che poi ogni anno dovrebbe indicare dovrebbe suggerire quali sono i beni e i servizi che sono sottoposti, che devono entrare necessariamente per questa centralizzazione. Sì. E quindi cioè, come tempo? Credo che si tratti di una questione di mesi nel mettere su questi 35 soggetti aggregatori. Ricordiamoci, non è una cosa che da un giorno all'altro tutti gli acquisti vengono fatti attraverso questi soggetti aggregatori. Sarà un processo, chiaramente. Sarà un processo. Inizialmente si comincia con delle soglie che sono abbastanza elevate, cioè al di sopra di certi acquisti si deve passare per i soggetti aggregatori, per certe merceologie, poi si scende. La gestione di quanto rapidamente ci si muoverà, questo è una cosa che dipende. È anche una decisione politica, chiaro. Senta, invece lei voleva ridurre da 8.000 a 1.000 le società partecipate. Sì. Nella legge di stabilità non si è fatto nulla. Questa è stata la sua, si può dire, la sua più grande sconfitta, cioè nel non essere riuscita a far passare questo messaggio? Ma dunque, sinceramente, perché non è stato inserito nella legge di stabilità qualcosa? C'è qualcosa, ma abbastanza modesto, non lo so, però non è che il governo ha abbandonato l'ipotesi. Forse perché lì siedono molti politici trombati nelle società. Dunque, chiariamo una cosa, la legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione contiene una sezione sulle partecipate. Quindi lo strumento che credo adesso il governo vorrà utilizzare per la riforma delle partecipate sia questa legge delega sulla riforma della pubblica amministrazione, che credo abbia iniziato il proprio iter in Parlamento ieri, anche se non sono però la sensazione, lei stesso ha detto, il più grande ostacolo in Italia che ho visto è la burocrazia, cioè c'è sempre questa sensazione che lei una soluzione l'aveva data per ottobre e adesso si farà. Cioè, quante resistenze ci sono da questo punto di vista in Italia a non fare le cose? Ma è chiaro che ci sono resistenze di diverso tipo, lei ha parlato di resistenze burocratiche, ovviamente ci sono anche resistenze politiche, perché le partecipate costituiscono un elemento di potere, cioè il capitalismo, come si dice, non di Stato, perché non è lo Stato, ma diciamo regionale, provinciale e comunale, ci sono degli interessi molto forti, però insomma non è che, come dico, la riforma sia stata abbandonata, è stata scelta un percorso, quello della legge delega, che è più lento. Non lo so, questo perché è stato scelto, però non è che è stato abbandonato. Lei, diciamo, la sua proposta l'ha fatta, poi ha sempre detto è una decisione politica, ovviamente. Beh, per tutte queste cose il commissario poteva fare soltanto proposte. Proposte tecniche. Aveva anche proposto, tra le cose tecniche, di tassare le pensioni più alte, tema che lei stessa ha giudicato politicamente delicato. È sempre dello stesso parere, in Italia bisognerebbe tassare le pensioni più alte? Il termine di tassazione è forse un po' più quello che si proponeva, era un contributo, ma poi ci sono state diverse proposte, fondamentalmente quello che conta è il netto, quindi si tratta di vedere un ricalcolo delle pensioni. Io ho detto, questo è sempre stato un tema delicato, le pensioni sono, secondo delle definizioni, 270-300 miliardi, non è una cosa, su un totale di spesa primaria di 700 miliardi, non è una cosa che il commissario poteva escludere. E poi il governo decide certe priorità, certi tagli sono stati spesi, sono stati fatti anche abbastanza consistenti nella legge di stabilità del 2015, evidentemente è stato ritenuto che non c'era bisogno di andare a toccare le pensioni, oltre. Si c'erano altri tagli che si potevano fare. Senta Cottarelli, veniamo alla questione greca, che è molto delicata anche per il suo ruolo nel Fondo Monetario. Intanto una curiosità, ieri lei ha incrociato Varoufakis, ma lei che viene in un mondo americano, questa storia dell'abbigliamento di Varoufakis è una cosa che ha presa oppure un discorso? No, mi sembra abbastanza irrilevante, soprattutto in un contesto americano dove si è molto informato. Infatti, avevo questo sospetto. Lei però rappresenta la troica, quella che Tsipras definisce una forza di occupazione. Che effetto le fa? Dunque, creiamo una cosa. Io sono adesso al Fondo Monetario, sì, ma sono al bordo del Fondo Monetario, sì, certo, a rappresentare paesi tra cui la Grecia. E anche l'Italia. E l'Italia, quindi in qualche modo sono lì in rappresentanza del l'avvocato governo difensore se vuole. Esatto, sono l'avvocato difensore del governo greco come degli altri governi che rappresento. Ma davvero si sente di entrare in una parte della forza di occupazione quando entra Washington al fondo? Ma no, infatti non mi sembra che si parli mai di no, certamente no, non... Il termine forza di occupazione mi sembra abbastanza improprio, anche per il lavoro che facevo precedente, anche quando non ero l'avvocato difensore, diciamo. Fondo Monetario è un'organizzazione internazionale che fornisce fondi a paesi che richiedono il supporto del Fondo Monetario. Questa è la definizione, però sa, sì, politicamente... Però è anche la realtà, perché insomma, non è che ci sono dei paesi che decidono di chiedere il supporto del Fondo Monetario Internazionale. Il Fondo Monetario Internazionale pone delle condizioni perché deve preservare le proprie risorse, che sono quelle della comunità internazionale. A proposito di questo, lo so che il discorso è ancora molto in fieri, ma insomma su tutti i giornali e anche oggi a Repubblica il ministro Varoufakis ha lanciato questa proposta, già fatta al Financial Times, di sostituire il debito che la Grecia deve in parte con questo, facendo uno swap e cambiandolo con dei bond da pagare in base all'andamento positivo dell'economia greca. Sarà una discussione in atto. Le sembra una soluzione fattibile e che potrà ricevere dei consensi a Washington? Non è che vorrei sembrare reticente su questo, ma commentare su queste cose che sono appena uscite. La proposta di bond indicizzati alla crescita non è una proposta nuova, è stata fatta da diversi anni per altri paesi. Credo che sia una proposta che è stata avanzata, non so neanche con che livello di dettaglio. Commentare su questo mi sembra impossibile a questo punto, anche perché poi, come sai, il diavolo sta nei dettagli, quindi insomma, bisogna andare a vedere come sono fatte però certe cose. Quello che possiamo dire è che l'austerità, e questo lo dice Atene, ma lo dice anche Obama, lo dice l'Italia, l'austerità, di troppa austerità si muore. Guardi, l'ho detto anch'io, l'ho scritto anch'io. È d'accordo su questo? Beh, l'ho scritto anch'io nel 2012, che c'è anche evidenza empirica che fino a un certo punto stringere la politica fiscale è necessario e porta anche a un aumento di credibilità, a una riduzione dei tassi di interesse. Andando oltre a certi livelli può essere addirittura controproducente, perché ai mercati interessa anche se un paese cresce oppure non cresce. Quindi si tratta poi di vedere in pratica per ogni paese quant'è questo livello, ma che in linea di principio troppa austerità possa creare degli effetti collaterali negativi e essere controproducente, credo sia vero, l'ho sostenuto anch'io. Ma se si sente la Merkel, come la mettiamo, professor Cottarelli? Ma insomma, bisogna distinguere tra quelle che sono il piano di pubbliche relazioni, presentazioni, eccetera, e la sostanza. Io credo che tutti i paesi, compresa la Germania, si rende conto che esistono dei limiti oltre i quali non si possa andare. Però nel caso specifico greco le discussioni sono fatto appena cominciate. Le chiedo questo, Cottarelli, sa che c'è un dibattito su uscire o no dall'euro, ci sono forze politiche che lo chiedono. È immaginabile un'uscita dall'euro della Grecia, sebbene smentita dal governo Tsipras, e che invece potrebbe creare un'uscita dall'euro, una sorta di effetto Lehman con conseguenze disastrose? No, secondo me a questo punto no. Si è superato la fase più difficile, che era quella del 2011-2012. Quindi è escluso che la Grecia possa uscire dall'euro. Secondo me sì. Questo sì. Allora, io intanto la ringrazio molto. Ho un'ultima domanda di curiosità, però me la deve far fare questa domanda, perché quando avrà letto anche lei tutte le vicende di Strauss-Kahn, che è stato direttore del Fondo Monetario, lei l'ha conosciuto da vicino, si immaginava mai di leggere sui giornali, insomma, di orge, di situazioni così? Così, cioè, voglio dire, che effetto le fa, insomma, e che effetto fa lì al Fondo Monetario leggere queste cose? È il passato ed è stato dimenticato Strauss-Kahn, oppure ancora qualcosa? Ma in certo modo sì, insomma, ovviamente è stata una sorpresa molto spiacevole per tutti. Adesso, insomma, è passato un po' di tempo e qui si pensa a qualcos'altro. Si pensa ad altro. Leggiamo le cose sui giornali, ma insomma, non è che a questo punto c'è ben altro che pensare. Questo certamente. Intanto la ringrazio ovviamente. Buon lavoro e torneremo a disturbarla quando magari sulla questione Grecia si saprà qualcosa di più. Grazie davvero. Grazie a voi. A Carlo Cottarelli, che è stato il commissario della Spending Review in Italia e oggi è cosiddetto avvocato difensore, insomma, nel Fondo Monetario Internazionale, è uno dei direttori membri del comitato esecutivo del fondo, rappresenta tra gli altri anche l'Italia, oltre che Grecia, Portogallo, Albania, Malta e San Marino. Noi andiamo a sentire la pubblicità. Quando rientreremo avremo ospite l'assessore ai trasporti della regione Calabria, Nino De Gaetano. Ricordate, per chi ha seguito ieri l'intervista all'ex ministro Lanzetta, che si è dimessa da ministro, doveva entrare nella giunta in Calabria, ma ha detto: io non entro e non mi siedo in giunta nel governo calabrese perché c'è l'assessore De Gaetano, e che è una persona su cui ci sono dei dubbi. Non voglio stare al suo fianco. L'abbiamo chiamato per capire che succede. 24 mattino. Sono le 8:41 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, ieri, come ricorderete, se avete ascoltato, avevamo ospite Maria Carmela Lanzetta, ex ministro degli affari regionali, che si è dimessa da ministro, doveva entrare in giunta del governo della Calabria, del presidente Oliverio, e poi ha detto pubblicamente, come ha ribadito ieri: io non entro in giunta perché non voglio sedermi a fianco all'assessore Nino De Gaetano, che saluto. Buongiorno assessore, benvenuto. Buongiorno. Allora, la pietra della discordia, il pomo della discordia è lei. Pubblicamente l'ha detto Carmela Lanzetta. Adesso cercheremo di spiegare anche perché evidentemente ha detto queste frasi. Intanto, se vuole, gliela faccio sentire Carmela Lanzetta cosa ci ha detto ieri. Senta. Che c'è che non va bene con il... Allora, io credo che la Calabria in questo momento abbia la necessità assoluta, per come si trova, di avere un profondo rinnovamento, quindi è necessario che le persone che vengano scelte non abbiano nessuna ombra, altrimenti quale messaggio oggi diamo ai giovani qualora loro vengono a sapere che i voti si possono ottenere in maniera anche illecita? Questo ha detto in sostanza, cioè ha fatto capire De Gaetano che i voti che lei ha preso sarebbero stati presi, potrebbero essere stati presi anche in forma illecita, e che ci sono ombre su di lei. Intanto poi magari cercheremo di capire da alcuni articoli di giornale. Intanto però la sua replica, lei che effetto le fa sentire che Maria Carmela Lanzetta non si vuole sedere in giunta con lei? Ma che effetto mi fa? Secondo me ovviamente sbaglia. Tra l'altro lei stessa dice che io sono una persona per bene, un bravo ragazzo, sempre, queste sono parole sue che ha scritto in un'intervista al Corriere della Sera. Sì, l'ha detto anche da noi ieri. Ha detto, ho sempre lavorato per dare una mano ai precari e ai disoccupati, alle persone più deboli. E questo l'ha confermato anche ieri qui nell'intervista. E quindi io credo che sia soltanto una questione politica, di altri problemi che ha, diciamo, di altre produzioni politiche che fa, e trovo ovviamente una scusa per cercare, insomma, di sviare il discorso. Sa qual è, assessore, la questione è questa. Avrà letto anche lei i giornali che la riguardano, sul Fatto Quotidiano per esempio. Uno dei fatti contestati evidentemente a lei, che ricordiamo non è indagato di nulla, è che vari santini, cioè le questioni elettorali, i manifesti elettorali, sono stati trovati in casa di uno dei capi dell'Ndrangheta, in un rifugio del latitante Giovanni Tegano, e gli inquirenti dicono erano talmente tanti santini che si ipotizzava in una sorta di campagna promozionale in favore suo. Lei come ha letto questo fatto, che abbiamo trovato tanti santini in casa di un boss? Beh, intanto sono, non è proprio così. Primo punto, erano 10 bigliettini a visita, quindi se 10 bigliettini a visita sono tanti santini per fare una campagna elettorale, si vede chi ha scritto queste cose non ha idea di cos'è la campagna elettorale. Secondo punto, non sono state trovate a casa di un boss, almeno da quello che leggo sui giornali, perché ovviamente io non essendo indagato non ho ricevuto nessuna comunicazione, quindi insomma io sono molto rispettoso della magistratura e la magistratura ha fatto il suo lavoro e non ha ritenuto di dovermi indagare perché non c'è nessuna ipotesi di reato. L'altra cosa non è a casa del boss, ma era a casa di un, credo, di un cittadino di un'altra zona di Reggio, dove forse è stato diciamo ospitato durante la due cose completamente diverse. Sì, lei dice non era a casa del boss, ma a casa di una persona che bigliettine di visita che fino a quel momento credo era incensurata. Detto questo, io le voglio dire soltanto questo: in quel periodo elettorale io ho mandato i bigliettini di auguri a tutti gli abitanti della provincia di Reggio Calabria per posta, per fare pubblicità diciamo dal punto di vista elettorale anche in prospettiva della campagna elettorale, quindi insomma, non credo proprio che questo possa significare. Però, guardi, niente. Io tra l'altro con l'Andrangheta non ho niente la mia famiglia scusi un attimo, la mia famiglia non ha avuto mai un problema di qualsiasi natura. Io nella mia attività politica l'ho sempre contrastata con i fatti e le voglio dare solo due elementi. Primo elemento, quando ero assessore al lavoro alla giunta Loiero ho finanziato cooperative sociali che avevano beni sequestrati dalla criminalità organizzata, finanziati nel senso che ho dato i soldi per poter riutilizzare quei beni e poter diciamo, dare la possibilità alla collettività di poterli utilizzare. Secondo aspetto, da consigliere comunale a Reggio Calabria sono stato l'unico a presentare una proposta di consiglio comunale per evitare di privatizzare servizi comunali di Reggio Calabria che poi sono stati infiltrati dalla criminalità, l'unico. Quindi io sono stato con i fatti quello che ha lavorato contro la criminalità organizzata. Però guardi, io poi l'unica, la cosa più insopportabile per me quando si fanno le interviste, noi siamo qui ad ascoltarla, la ringraziamo, la sua versione, è fare gli interrogatori. Questo non è un interrogatorio, però le devo dire alcuni fatti che sono riportati sempre dai giornali. Per esempio, scrive sempre il Fatto Quotidiano, qualche anno fa ha rischiato Nino De Gaetano l'arresto in una informativa della squadra mobile firmata dal dirigente Gennaro Semeraro, c'erano firmati da lui i gravi indizi di colpevolezza che consentono per la loro genuinità di prevedere l'idoneità a dimostrare la responsabilità di medesimi e come tali ipotizzare le esigenze cautelari. Insomma, c'era scritto in questa informativa, poi non è successo nulla, che c'erano le possibilità di arrestarla. Cioè, è da qui che insomma Maria Carmela Lanzetta forse ha detto è una persona chiacchierata, ecco, chiacchierata è troppo come aggettivo o va bene? Secondo me è troppo fuori luogo, ovviamente, anche perché però se ci sono delle informative della polizia si fermi un attimo, il Fatto Quotidiano omette di dire la seconda parte scorrettamente, ovviamente, perché la seconda parte c'è una informativa della polizia, fino a prova del contrario in Italia c'è una democrazia, la polizia non fa arresti, ma le informative vanno a un organo terzo che è la magistratura, che poi valuta. È l'unico potere per poter decidere se fare dire l'azione penale, arrestare, fare quello che deve fare. Subito dopo ovviamente c'è stato, questo lo scrivono anche i giornali, quindi non è che non lo dice che do io, il PM e la magistratura ha deciso che non ci sono indizi di colpevolezza per adire l'azione legale e non sono stato neanche indagato. Quindi purtroppo il Fatto Quotidiano si ferma sempre a una parte, informative della polizia e non dice l'altra. Quindi lei perché la parte più importante. Ho capito, ma lei ne dà una lettura solo politica, cioè è abbastanza clamoroso che un ex ministro dica io in giunta non siedo di fianco a un assessore che risponde al nome e dice il nome e cognome. Cioè lei capisce. Ma sarà clamoroso, secondo me, ovviamente, deve chiederlo a lei. Non ha modo di spiegarla, perché quando dice non ha fatto chiarezza dice una sciocchezza colossale, perché la chiarezza l'ha fatta già la magistratura. Quindi deve essere, io tra l'altro si parla in tutte queste cose, io non ho mai avuto un incontro, mai li ho conosciuti, lo dice la stessa magistratura, mai ho avuto una telefonata con nessuna di queste persone. Di che cosa stiamo parlando? Che due persone si incontrano e parlano di una terza persona. Ma allora lei che fa? Cioè, non so, la querela, la Lanzetta, perché oppure non la querela? Guardi, questo ovviamente poi si valuterà. Io non ho niente contro Maria Carmela Lanzetta, è stata, io la ritengo una persona per bene, secondo me sta sbagliando dal punto di vista politico in questo momento. È stata catapultata in un mondo più grande di lei, perché ovviamente passare da singolo con il piccolo comune a ministro ovviamente non è facile, diciamo, sì, entrare nella nuova realtà. Ha avuto questo, tra cioè, l'altro anche lei l'avrebbe voluto in giunta, non aveva nessun problema. Certo, come no, l'avrei voluta, mi sarebbe piaciuto lavorare con lei. Ho già lavorato con lei, tra l'altro, quando io ero assessore regionale, lei era sindaco, e gli ho stabilizzato i suoi precari del suo comune. Sono andato parecchie volte a Monasterace a lavorare con lei, quindi diciamo, non c'è nessun problema. La cosa strana, che chiedo anche a lei, lei si accorge di questa cosa 2 giorni dopo la nomina. Anche qui mi pare un po' strano. Questo effettivamente me lo sono chiesto anch'io. Ma e perché? Martedì ha avuto queste nominazioni. Evidentemente in 2 giorni qualcosa dal punto di vista politico gli ha suggerito di fare questa operazione. Cioè di non mettersi, di fare questa operazione. Ma insomma, certo. lei può ipotizzare che cosa di dal punto di vista politico? Ma ovviamente ci sono diciamo correnti diverse nel Partito Democratico, ci sono sensibilità diverse. Ovviamente io rappresento una parte del Partito Democratico che nella mia provincia può essere non piace a tanti altri, e hanno trovato diciamo un modo per fare alzare il tiro, creare problemi, cose che accadono nella politica sempre. Lei però ha già detto in un'intervista, intanto la saluto, questa è l'ultima domanda, se dovesse mai venire fuori un'indagine su di me, sono pronto a dimettermi, conferma? Ma certo, questa è la prima cosa che ho detto al Presidente Oliverio, sono sicuro di essere pulito, tranquillo, non ho avuto mai a che fare con la giustizia, mai nessun problema, non conosco le persone che sono state nominate, i miei voti sono tutti puliti, basta andare a chiedere anche in quelle zone dove si parliamo di 20 voti, dove tutte e 20 le persone che mi hanno votato sono disponibilissime ad andare a testimoniare mi hanno votato, che non c'entra niente. E se dovesse arrivare un'indagine? Sono sicurissimo, se dovesse arrivare, l'ho già detto, e quindi sono... quello che ha detto Oliverio, confermo. Si dimette. Intanto la ringrazio, buon lavoro ovviamente assessore. Grazie, l'assessore ai trasporti della Regione Calabria, Nino De Gaetano. 24 mattino. Ciao Italia! Siete pronti? Ebbene sì, ciao Italia, è lo spazio che dedichiamo a tutti coloro che dall'estero ci seguono e ci scrivono a 24 mattino e radio24.it, e noi li chiamiamo e li mandiamo in onda per capire che fanno, dove vivono, cosa stanno combinando. Oggi abbiamo con noi Paolo. Paolo, buongiorno. Buongiorno. Dove ti trovi, Paolo? In questo momento mi trovo sulle Ande peruviane. Sulle Ande? In un piccolissimo paese. Ma è fantastica sta cosa. Come no? È notte. Che ore sono? Sì, sono quasi le 3 del mattino. Le 3 del mattino? Sulle Ande? Ma raccontami tutto, che paesino è? Allora, è un paesino che si chiama Queropalca. Ed è alla base di un gruppo montuoso che è la cordigliera del Huayhuasca. E che ci fai lì? Per il Club Alpino Italiano di Verona sto seguendo la costruzione di un rifugio che vogliamo regalare ai ragazzi locali perché possono avere un lavoro. Ma è straordinario. Quindi tu sei di Verona, immagino? Verona? Io sono di Verona, sì. E sei lì in Perù da quando per seguire questo progetto? Allora, è dal 2011 che sono qui in Perù. Però non sempre sto tutto il tempo qui in Perù, vado e vengo dall'Italia, certo, perché dobbiamo anche recuperare dei soldi per continuare questo nostro progetto. Ma è bellissima, a che punto è questa costruzione? A che percentuale siete arrivati? Quando è che lo finite? Pensiamo di finirlo per questo agosto, in quanto il Club Alpino di Verona compie 140 anni e vogliamo inaugurarlo. È chiaro, per l'occasione. Ma c'è proprio un rifugio come quelli che funzionano in Italia, per cui poi si sta lì? Sì, dovrebbe essere così, e noi lo diamo in gestione ai ragazzi locali, dove qui non c'è lavoro, pertanto loro con la gente che viene per turismo possono... Questa cosa è fantastica, Paolo, perché coniuga il fatto che tu sei lì a lavorare, ogni tanto torni, ci segui, perché ci segui, ci hai iscritto, come ci segui? In streaming? Streaming, sì, sempre per internet, quindi almeno tu mi tieni aggiornato su quello che passa in Italia. E passano buone cose, passano? ma non sempre. Non sempre, vabbè. Però tu invece stai facendo una cosa straordinaria, cioè date anche un'opportunità di lavoro a questa comunità. Sì. Sulle Alpi. Quindi a che quota sei, con quota di altitudine? Qui che lo fai, che è a 3800 metri. 3800 metri, ci stai ascoltando, è fantastica questa cosa. Paolo, siamo circondati da montagne che sono oltre 6000 metri. È chiaro, dai un messaggio veloce, lapidario all'Italia da lì, da 3800 metri in Perù. Allora, posso darlo con quello che possono dire i locali, sì, in lingua quechua. Agli incausai, vai che cuna, panai cuna, italiani cuni. Ecco, italiani ho capito. Il resto? È un saluto tipo, cari fratelli e sorelle italiane, vi auguro una buona vita. Ma straordinario, Paolo, il Papa avrebbe fatto una cosa del genere. Ti ringrazio, un abbraccione a te, a tutto il Perù e al Club Alpino Italiano di Verona. Grazie, a domani. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. ADP, leader mondiale nella gestione del personale. ADP-italia.com. Vi ha presentato 24 mattino.